devi fare una festa relativa agli anni 60, chi chiameresti? Chiamerei tutti gli artisti che, di cui canto i pezzi in questo spettacolo, Iannacci, Cocchi e Renato, tutto quel mondo lì, Milano degli anni 60 e 70, insomma, dove secondo me c'era una creatività, una, anche un'assurdità uniche. Erano anni molto più liberi dal punto di vista creativo rispetto a oggi, no? Oggi mi sembra che i comici viaggino più o meno sempre sugli stessi schemi, invece allora c'era una libertà assoluta. Tutto ciò per quale motivo? Non lo so, che oltretutto è una frase che torna spesso in questo spettacolo, però è vero, non lo so. È accaduto esattamente l'opposto di quello che avremmo potuto pensare, no? Perché soprattutto con l'arrivo di internet si pensava di assistere ad anni di libertà assoluta e sempre maggiore, invece mi sembra che stia accadendo esattamente l'opposto. Sì, ed è esattamente anche un aspetto molto preoccupante. Certo che affrontare questo con la giusta ironia, con la giusta intensità, è sicuramente un messaggio che arriva diretto ed è importante per un pubblico curioso, attento, che ha voglia anche di ridere. Per questo chi ci sarà accanto a te per questo spettacolo, Elio? Sì, guarda, bravo. L'obiettivo è sempre quello di ridere in modo sempre nuovo, però. E il modo di ridere di quegli anni lì oggi suona molto nuovo. Insieme a me sul palcoscenico c'è un gruppo di giovani molto bravi, un'ora e un quarto di musica interessante e anche di testi molto interessanti, che fanno anche ridere qui e là. Come ci hai messo del tuo in tutto ciò? Io cerco sempre di dare il meglio di me, insomma, e in questi casi, quando sei di fronte a canzoni o a scritti che sono già fortissimi, il meglio di me cerco di darlo nel fare tutto bene, certo. Nel cercare di non cambiare niente, ecco. Quando si ascoltano queste canzoni, che sono canzoncine, insomma, in alcuni casi anche abbastanza stupide, in altri casi no, però suonano sempre nuove, suonano sempre interessanti, strane, assurde, e per chi non è nato in quegli anni lì e non le ha ascoltate come me invece quando ero piccolo, sembra un qualche cosa che sia piombato da un altro mondo, no? Improvvisamente. Sì. E mettere insieme un linguaggio di comicità e con la musica, che adesso sembra veramente una cosa molto distante, anzi adesso il messaggio che arriva dalla musica è più preoccupante per quanto riguarda la proposta attuale. Mettere insieme quest'ironia con la musica e soprattutto dare uno sguardo al passato, com'è? È come andare a rileggere un vecchio libro che avevamo apprezzato, ma che forse non avevamo letto con la consapevolezza di oggi. L'abbiamo dato un po' per scontato. Ah sì, sì sì, io pensavo che da quel punto lì poi noi saremmo andati sempre avanti, no? Invece siamo ritornati indietro, per cui andare a riascoltare e rileggere quegli anni lì, io penso che possa essere molto utile. Certo, appuntamento a Bologna, al Teatro Duse. Io ti ringrazio tantissimo, Elio, e ti auguro una buona giornata. Grazie a te. Ciao. Grazie a tutti, ciao.